Incontri di Gianfranco Fabi. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me. And he sang as he stowed that jumbuck in his tucker bag. You'll come a waltzing Matilda with me. Down came the squad. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buona domenica a Fabrizio Garimberti. Grazie. Waltzing Matilda, una canzone popolare australiana, se non sbaglio. Esatto, è una canzone che data dai tempi del pionierismo australiano e parla appunto di questo pioniere, di questo pastore che pascolava le pecore e che qualche volta ne rubava anche. E allora chiama una di queste pecore, Matilda, e le dice: vieni a ballare il valzer con me. È talmente popolare che fu proposta per diventare l'inno nazionale australiano, però diciamo a Canberra, dove c'è gente molto abbottonata, cominciarono a pensare che forse era meglio qualche cosa di più solenne, di più austero. Sì, ecco, sì. Parliamo di Australia, perché Fabrizio Garimberti, economista, editorialista del Sole 24 Ore, da 20 anni, mi sembra, vive in Australia. L'anno prossimo saranno 20 anni, sì. Ecco, come mai questa scelta, dopo essere stato a Parigi, mi pare all'Ox, dopo essere stato a Torino all'ufficio studi della Fiat, poi al Sole 24 Ore e poi in Australia? Beh, come dicono spesso i francesi, cherche la femme. Io ero sposato a un'australiana e a un certo punto decidemmo di cambiare vita e di lasciare il vecchio continente e andare nel suo paese natio. Era una proposta che mi affascinava perché era anche una sfida professionale, non solo diciamo cambiare paese, ma anche dimostrare che con le nuove tecnologie, nel 94 eravamo agli albori della rete, della email e di tante altre cose che adesso vengono date per scontate, allora cominciavano a essere usate e la sfida professionale era quella di dire: è possibile continuare a fare quello che facevo, cioè commentare l'attualità economica italiana e internazionale stando anche dall'altro capo del mondo. Cioè dimostrare che essere all'altro capo del mondo era più o meno uguale a essere nella stanza a fianco. Ecco, però c'è un piccolo problema, il fuso orario. Questo è l'unico problema. Diciamo, tutta la tecnologia di questo mondo non può ovviare al fatto del fuso orario. Quindi a questo punto o si accetta, come in effetti nel passato mi è successo molte volte, di dovermi alzare alle 4 del mattino per commentare qualche cosa che Bernanke ha detto in America e che deve andare sul giornale in tempo reale, ecco, oppure limitarsi a guardare le cose con un 24 ore di distacco e fare delle analisi che non siano in stretta correlazione con l'attualità bruciante. Ecco, quindi ci si può riuscire, insomma, è con qualche complessità. Diciamo che le tecnologie si sono evolute poi al punto tale che ormai, appunto, con email, con internet, con tutte le altre diavolerie, tra virgolette, attuali, veramente essere all'altro capo del mondo, agli antipodi, equivale a essere nella stanza a fianco. Sì, per certe cose, stando a Melbourne, c'erano certe cose che erano anche più facili da fare di quanto fossero in Italia, per esempio. Dato che noi siamo da 8 a 10 ore avanti, io posso leggere i giornali quando vengono messi in internet la mattina, quando per voi sono, non so, le 6 del mattino, io dall'Australia ho già letto i giornali italiani. Poi ci sono tutti i documenti. Io mi ricordo quando ero a Milano alla redazione del Sole, per esempio usciva, non so, la relazione di cassa del Ministero del Tesoro oppure la relazione generale dell'Istat, e quella usciva a Roma, era disponibile su cartaceo a Roma e quindi bisognava o fare un fax di 100 pagine oppure affidarla a un amico comandante dell'Alitalia che la portava a Milano in modo che noi potessimo digerirla e commentarla. Invece adesso viene messa istantaneamente in rete, quindi anche se sono in Australia o al limite al Polo Sud, io la posso vedere prima di quanto la potessi vedere quando ero a Milano, prima delle famose tecnologie. Ecco, è cambiato molto il sistema di comunicazione e anche l'economia è diventata un po' più complessa, magari non solo in questi ultimi 20 anni, ma da quando ho cominciato a fare l'economista, ormai da 30-35 anni forse, è diventata più complessa, si è globalizzata ed è diventata più difficile e anche sta vivendo dei momenti particolarmente difficili. Qual è la differenza maggiore da quando ha iniziato a occuparsi di economia, Fabrizio Galimberti? Beh, la differenza maggiore sta, diciamo, in quello che potremmo chiamare il contagio nel bene e nel male. Oggi con l'economia globalizzata le notizie si diffondono velocemente, le sensazioni di fiducia o di sfiducia si diffondono ancora più velocemente e soprattutto con la finanziarizzazione dell'economia è possibile spostare capitali e quindi spostare anche sentimenti da una parte all'altra del globo. Infatti abbiamo visto come la grande recessione sia andata passando da un paese all'altro, come i famosi incendi del bush australiano che si propagano con una grande rapidità appena soffia il vento e possono avanzare più rapidamente di quanto un uomo possa correre. Ebbene, questa è la caratteristica più preoccupante dell'economia attuale, la facilità con la quale le sensazioni, sì, la fiducia si può trasmettere da un paese all'altro. È qualcosa che può agire nel male, ma può anche agire nel bene. Però del bene forse ha maggiore lentezza nell'agire, il contagio positivo, sperando che ci sia, che ci possa essere, che possa venire in qualche modo, forse si diffonde più difficilmente che non le notizie negative. Beh, certo, ci vuole una latente disponibilità ad accettare il buono. Ecco, questo è quello che mi preoccupa di più nella situazione italiana attuale. Io sono abbastanza fiducioso sul fatto che l'economia internazionale si avvia verso una ripresa più solida di quanto si pensi. Ecco, però appunto in Italia i problemi sono talmente radicati che anche se prima o poi finiremo per essere trascinati in una corrente positiva, però ci metteremo più tempo degli altri e continueremo ad allargare il divario che ci separa dagli altri paesi. Ecco, qual è la differenza maggiore a livello economico, a parte la vastità del territorio, tra un'economia come quella italiana e un'economia come quella australiana? Quali sono i caratteri dell'economia australiana? Un continente molto lontano, noi lo vediamo spesso solo attraverso forse dei luoghi comuni, la terra dei canguri, ma ci sono anche molti emigrati italiani in Australia, c'è una vivace comunità italiana, è una realtà molto diversa da quella italiana, quella australiana. Eh sì, fondamentalmente la grande differenza è che l'Italia è un'economia di trasformazione, mentre invece l'Australia è essenzialmente un'economia fortunata, the lucky country, è un'economia che vive su immense ricchezze minerarie, agricole, paesaggistiche. È un'economia in cui lo spazio diventa un elemento di benessere. Noi non ci rendiamo conto come, vivendo gomito a gomito in un paese affollato, si creino delle tensioni che non si creano in Australia, quando lo spazio permette di avere delle strade larghe, un traffico basso, un rumore non scostante, basso inquinamento e soprattutto un atteggiamento così di tolleranza e di amicizia che è difficile trovare in paesi, diciamo, più affollati e dove l'immigrazione ha cambiato degli equilibri consolidati, un modo di essere assieme che ci riporta al bel tempo andato, ma che adesso in un'economia che è globalizzata non solo economicamente ma anche etnicamente, ecco, spesso andando per le strade si vedono tutti i colori nel senso letterale la multietnicità della insomma. Ecco, c'è stata appunto una forte immigrazione italiana all'inizio del secolo scorso, ma negli ultimi anni c'è ancora un flusso migratorio di giovani che vanno verso l'Australia, di italiani che cercano la fortuna in questo territorio, o è magari un'immigrazione più di laureati, di persone che hanno magari che vivono e lavorano all'interno di multinazionali, che tipo è questa, l'attenzione che si può avere dall'Italia verso l'Australia, è ancora attrattiva per gli italiani, può essere ancora attrattiva? Io direi senz'altro di sì, io incontro molta gente che è interessata a venire in Australia, io so che anche per esempio la Camera di Commercio italo-australiana a Melbourne, dove abito, riceve molte segnalazioni, molte richieste. Il problema è che è molto controllata l'immigrazione in Australia, perché appunto perché è una delle poche isole felici del mondo, e loro prendono un numero di immigrati che è più o meno uguale a quello in percentuale della popolazione a quello che prende l'America o i paesi europei, però questi immigrati sono accuratamente selezionati e quindi bisogna appartenere a un elenco di professioni richieste, bisogna avere una buona conoscenza dell'inglese, non è più come ai tempi dell'immigrazione eroica in cui la gente partiva con la valigia sul piroscafo, si faceva 40 giorni di traversata e arrivava senza sapere una parola d'inglese, inserendosi nelle comunità, famiglie, amici che già si conoscevano. No, adesso tutto questo si è molto più professionalizzato. Quindi se qualcuno è interessato ad andare in Australia deve cominciare a chiedere all'ambasciata australiana una pubblicazione che loro danno in cui sono elencati i requisiti e dopodiché mettersi in coda sperando un giorno o l'altro di essere chiamato. Ma c'è poca, la maggior parte oramai degli immigrati vengono dall'Asia perché è in quella zona geografica che l'Australia è collocata. Io mi ricordo quando oramai una 14-15 anni fa io ho preso anche la cittadinanza australiana o la doppia cittadinanza, visto che abitavo in Australia, allora mi dissi perché non dovrei anche votare ed essere un cittadino qua. E andai alla cerimonia della consegna del diploma, del certificato di cittadinanza, una cerimonia che si svolge su base comunale, su base addirittura di circoscrizione. Mi ricordo che quella sera eravamo circa 120 e di questi 120 nuovi cittadini australiani, di questi 120, 115 erano asiatici. Asiatici quindi soprattutto cinesi probabilmente? Non solo, anche vietnamiti, delle Filippine, indonesiani, del Laos, la Cambogia, la Thailandia, molti cinesi anche, ma non esclusivamente cinesi. E quindi se uno diciamo proietta questo fatto così lungo i prossimi 30, 40, 50 anni, se uno vede i nuovi cittadini che ogni mese si aggiungono all'Australia, ecco, uno può pensare che l'Australia diventerà un paese quasi asiatico. Quasi asiatico. Ecco, anche da un punto di vista commerciale, economico-commerciale, l'attenzione forse attuale è più verso l'Asia che non verso quello che era, poi forse fa ancora parte del Commonwealth l'Australia, quindi di questa comunità degli stati che facevano capo alla Gran Bretagna, adesso è assolutamente indipendente ovviamente, però anche da un punto di vista diciamo strategico è più, sì. Più guarda più all'Asia che non al vecchio continente, alla Gran Bretagna e all'ex impero inglese. Sì, è un paese indipendente, però non dimentichiamoci che il capo dello Stato in Australia è la regina Elisabetta, così come in Canada per esempio, e quindi io ho la mia regina. E diciamo che l'Australia, a parte il fatto di essere collocata in quell'area geografica, c'è anche proprio una complementarità fra l'Australia e il resto dell'Asia a nord, in questo immenso continente sovrappopolato a nord dell'Australia. C'è una complementarietà perché quella è un'area che cresce, è un'area vorace di materie prime, e le materie prime è esattamente quello che l'Australia possiede in abbondanza, quindi c'è un doppio filo che lega l'Australia a quella zona. Un doppio filo che è un filo appunto di interesse ma anche di attenzione direi verso questo paese da parte degli stati asiatici in un movimento anche qui di crescita economica che speriamo che possa contagiare, come avevo detto all'inizio, anche le altre aree del mondo. Incontri. blinded alley, and I'm tired of all these soldiers here. Ancora con le note di Waltzing Matilda, riprendiamo il nostro incontro con Fabrizio Galimberti. Waltzing Matilda, ci ha spiegato, è una canzone molto popolare in Australia, ha rischiato anche di diventare inno nazionale. Dell'Australia abbiamo parlato perché Fabrizio Galimberti, economista, editorialista del Sole 24 Ore, da 20 anni vive in Australia, anche se ogni tanto, come in questi giorni, torna a Milano, torna in Italia per rendersi conto di com'è la realtà italiana. Però, come ci ha spiegato, se è possibile con le nuove tecnologie, con le comunicazioni, con internet, con l'email e con la possibilità di accedere alla documentazione attraverso appunto la rete, è possibile anche vivendo agli antipodi seguire minuto per minuto quanto avviene nella nostra società e commentare, come Fabrizio Galimberti fa da anni sul Sole 24 Ore, questa nostra realtà, questa nostra difficoltà in questo senso, magari appunto con quello spirito ottimistico che lo contraddistingue, guardando certamente ai dati problematici della situazione, e ce ne sono molti, ma anche alle risorse che un paese come il nostro ha, che forse non sono le risorse dell'Australia, che può contare su grandi materie prime, su grandi estensioni, su un'agricoltura molto vasta e che può contare anche su mercati in cui vendere questi beni, come i mercati dell'Asia, che sono affamati e sono in crescita, ma che appunto l'Italia ha comunque delle grandi risorse. Fabrizio Galimberti. Sì, c'è questa differenza fondamentale fra l'Italia e l'Australia, fra un'economia di trasformazione e un'economia di estrazione. Mi ricordo che gli australiani si preoccupano di questa situazione, c'è qualche cosa che gli economisti chiamano la maledizione delle risorse, nel senso che un paese che è ricco di risorse, magari si adagia in questa ricchezza, finisce con l'estrarre quello che dopo tutto non è un deposito inesauribile e quindi non sviluppa delle attività diverse. Io mi ricordo che quando ero ancora a Milano, prima di andare in Australia, un giorno andai con un invito del governo australiano perché questi volevano dare ad alcuni giornalisti la possibilità di trascorrere un paio di settimane in Australia e magari di tornare a dire agli italiani che stupendo paese è, perché non venite qui ad investire. Cioè il loro ragionamento era questo: noi per esempio, fra le tante cose che esportiamo in Italia, esportiamo anche del granito, delle lastre di granito, poi gli italiani le trasformano in piastrelle di granito e noi ce le rivendono. Allora loro si dicevano giustamente: ma perché noi non potremmo importare l'expertise, il saper fare italiano e questo valore aggiunto che ci fanno pagare, noi invece lo creiamo qui in Australia? Ecco, io gli dovetti spiegare pazientemente una cosa che spesso noi stessi italiani ignoriamo, cioè che il fare piastrelle sembra una cosa semplice, ma in verità se uno visita i famosi distretti industriali come quello di Sassuolo, in cui ci sono piastrelle, ecco, si rende conto che non è che basta importare per l'Australia, importare i macchinari e magari qualche tecnico e poi fare piastrelle è qualche cosa in divenire, è un processo che è fatto di continua innovazione incrementale, è un processo che si nutre di quella particolare atmosfera che esiste nei distretti, in cui è come se i segreti del mestiere volteggiassero nell'aria, in cui all'osteria ci si trova fra un piccolo imprenditore e un altro, ci si scambiano esperienze, c'è quel misto di emulazione, di concorrenza, che c'è questa voglia di eccellere, questo saper fare che affonda le sue radici nelle prodezze artigianali delle città medievali italiane, è qualcosa che non si può esportare. Sì, è un po' come l'aria che fa diventare il prosciutto di Parma quello che è. Quella forse si può esportare un modo di fare il prosciutto, probabilmente sì. L'Australia ha molti maiali, ma il prosciutto di Parma si fa solo a Parma. Esatto. E quindi l'Australia si è rinunciato a fare piastrelle, non grazie al mio consiglio, ma credo grazie a quelli che sono i dati di base della situazione. Ha cercato di diversificarsi in altri campi, per esempio c'è un'industria finanziaria molto sviluppata, c'ha alcuni punti di eccellenza nella ricerca medica, c'ha delle buone università, che questa è diventata veramente un'industria, nel senso che gli asiatici, i ricchi, i figli, diciamo, delle classi agiate asiatiche spesso vengono mandati a studiare in Australia, perché così imparano l'inglese, certo. E perché appunto molte di queste università australiane sono di buon livello, e dato che per gli stranieri le tasse universitarie sono quasi a livello di quelle americane, si parla così di 15, 20, 30 mila dollari all'anno come tuition fees, ecco che questa della educazione terziaria è diventata una vera e propria industria in Australia. Ecco, l'Australia è vista anche come un luogo di turismo, e c'è un'altra differenza oltre al fuso orario rispetto all'Italia, ed è le stagioni. Adesso stiamo andando verso l'inverno in Australia. Chi volesse fare un po' di turismo e andare in Australia, quali sono i consigli di Fabrizio Garimberti? Beh, diciamo che l'Australia, essendo un'isola continente, ha una vasta escursione climatica che va da una Tasmania che è piuttosto fredda fino al nord tropicale, quindi ce n'è per tutte le stagioni. Basta scegliere quelle giuste, però. Ecco, basta scegliere quelle giuste. Naturalmente io consiglio sempre, per chi voglia andare a visitare l'Australia, che le 2 settimane sono un minimo indispensabile, ma veramente bisognerebbe avere almeno 3 settimane, e quindi perché poi bisogna abituarsi al, certo, fuso, cioè, quando fuso orario, la stagione, esatto. E poi appunto ci sono molte, molte cose da vedere, dalle grandi città moderne come Sydney con la sua stupenda baia a Melbourne, e ci sono delle spiagge incredibili. Ecco, io mi ricordo, c'è una spiaggia non lontano da dove abito io che si chiama la 70 Miles Beach. Melbourne, quindi. Sì, che è Melbourne, si chiama la 70 Miles Beach, c'è una spiaggia di 70 miglia e c'è uno spazio, ci sono anche delle montagne, ci sono dei grandi spazi dell'outback, c'è il famoso monolite rosso, che è una di quelle cose, che di quelle 7-8 cose del pianeta che bisogna vedere prima di andare all'altro mondo. E ci sono specie nel nord ovest delle giungle tropicali, ci sono delle catene di monti incredibili con cascate di una bellezza che si ricorda per sempre. E poi c'è la famosa barriera corallina all'est, al nord-est dell'Australia. Quindi insomma ci sono tante cose da vedere e da godere. Con l'occasione prestato all'ufficio del turismo australiano, questa descrizione di Garimberti fa venire, sì, veramente la voglia di andare a vedere questo continente, perché poi è un continente, scegliendo appunto le stagioni giuste, perché a Natale compaiono spesso sui giornali italiani le foto delle persone con il cappello da Babbo Natale sulla spiaggia di Melbourne, ma sì, bisogna andarci a Natale appunto, sì, quando qua è pieno inverno, perché certo, lì è estate. Sì, sì. Comunque è un turismo ancora poco sviluppato, mi sembra, anche perché è costoso oltre che lungo arrivare dall'Australia, dall'Europa. Beh, però credo che negli ultimi anni sia andato aumentando. Certamente è molto più agevole per gli asiatici, in effetti la maggior parte del turismo è di provenienza asiatica. Però credo che ci sia anche un certo contingente dall'America e dall'Europa che si va ingrossando, perché in genere tutti quelli che tornano dall'Australia, ecco, ne sono entusiasti. E in effetti io mi sento molto fortunato, nel senso che godo del migliore dei due mondi: da un lato la qualità della vita in Australia, che è eccellente, dall'altro lato il fatto che, continuando a lavorare per il Sole 24 Ore, non mi sento un emigrato, sento che le mie radici rimangono in Italia, se non altro perché devo seguire ogni giorno l'attualità italiana. Ecco, questa attualità che è molto spesso contraddittoria, con convulsa e ricca anche di notizie negative. Guardando un po' in avanti gli ultimi due minuti di questo programma, dedichiamoli a una profezia, non a breve termine. Siamo ancora tutti vivi, vediamo cosa succede, ma un po' a lungo termine, quando pensiamo di esserci ancora, però potremo vedere nei prossimi anni qualcosa di più solido. Certo, dipende molto da noi, dipende dalle nostre capacità, dalla nostra volontà, dalla nostra anche attenzione ai fattori, alla realtà in cui viviamo, ma in prospettiva possiamo pensare di uscire da questa crisi, Fabrizio Galimberti? Ma io fondamentalmente dico di sì, perché le cose in Italia stanno cambiando. Certo, per noi ci sembra che stiano cambiando in peggio, però è vero che c'è stata una rivoluzione nella politica. Possiamo lamentarci del fatto che questa rivoluzione abbia acquistato degli aspetti così di confusione, di rassegnazione, di stallo, però è certo che la composizione dell'offerta politica è cambiata e sta cambiando. Ed è anche certo che l'economia sta molto male, ma proprio per questo io sono ottimista, perché so che quando ci troviamo con le spalle al muro, noi italiani abbiamo sempre trovato la maniera di reagire, altrimenti non saremo ancora qua dopo 20 secoli e passa. Sì, ma non bisogna essere fatalisti, bisogna appunto trovare la forza di reagire e avere la forza di capire quali sono le cose che si possono cambiare, sfruttare fino in fondo la logica del cambiamento e inserirsi in questa prospettiva di crescita, che è una prospettiva che comunque, come ci diceva all'inizio Galimberti, comincia a essere solida e anche più forte di quanto si poteva pensare nel resto del mondo. Speriamo nel contagio. Speriamo del contagio, speriamo di un contagio positivo. Ringraziamo Fabrizio Galimberti per essere stato con noi oggi, ci ha portato una voce dall'Australia, illustrandoci anche questo grande continente, le sue prospettive, ma anche dandoci un po' di speranza su quello che avviene in questo nostro paese. Io ringrazio Gianmarco Ferronato in regia, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.